primo atto da 7 a 9. Ah, vabbè, ma tu intendi così magari, giusto, se non sbaglio, così sono infatti la manetta del, credo, la manetta del, dell'apparato, però credo che vada in compressione. Guarda, il segnale si è alzato come poco fa e io non sento compressione nella radio. Vediamo, conferma Roberto. Roberto, andava bene l'ultima radio. Ma stiamo parlando di questo passaggio, ti abbassa un peluzzino oppure ti allontani appena appena dal microfono? Beh, così ho passato appena appena e sono, diciamo, il braccio steso. E infatti non saprei quanto ne ho. No, no, la radio è chiara, però se alzi un po' troppo la voce satura leggermente un peluzzino, ma stiamo parlando di cose molto limitate. Se vuoi tenerti un po' più basso, abbassa appena appena, così non ha nessun problema. Beh, guarda, io credo che vada bene, credo così, magari c'è anche qualche picco di modulazione in più. No, così se parli con questa tonalità, questa distanza è perfetto, va benissimo. E poi volevo rispondere un attimino a Gianni. Va bene, fai pure, dai, era giusto per vedere se, se c'era Fabrizio, se lo volevo far sentire con il più 5 attaccato. Ok, no, riprendi Roberto, riprendi. No, perché ho sentito Gianni quando stava parlando cosa, non ho capito niente perché c'era Fabio che stava parlando, ho sentito soltanto l'ultimo passaggio e ha detto polemiche. Ricordati sempre che da parte mia polemiche non ne sentirai mai, che non sono tipo e non me ne ha fatti nulla, l'ho detto sempre e lo ripeterò in eterno. Io mi dispiace se ho sbatterato a qualcuno, non me ne sono accorto assolutamente, perché non ci prendo nessun gusto a sbatterare, perché bastava entrare eventualmente e me lo dicevate. Non succede, io non sto facendo nessuna polemica, perché molte volte lo fanno anche a me, però non mi vado a dire oh mi hai sblatterato, fate quello, e qua chiudiamo il discorso, perché sinceramente non mi ha fatti nulla di, polemizzare per queste cose. Ok, con Fabio siamo assolutamente d'accordo, molte volte infatti lo dico anche io scherzando, con Gianni idem, non voglio avere discussioni di, cose inutili da parte mia. Ok, no, vabbè, ma da parte mia non dove, non voleva essere un rimprovero, io ti ho detto che abbiamo deciso così perché lui aveva disturbi, è normalissimo che uno quando è vicino possa disturbare. Non era un rimprovero che ti stavo dicendo, solo che ci siamo stati per quel motivo, punto. E tu hai continuato ad andare avanti, non è possibile che sia io, questo e quell'altro, non è così. E tu e boh, perché poi abbiamo girato e ci di tu, scusa, in quel momento lì abbiamo girato e ci di tu parlando, ma non è successo nulla. Ma ci mancherebbe, non è successo nulla, mi dispiace se è successa la situazione e non è una polemica, però io ho insistito perché ho detto sono stato un minuto esagerando perché stavo provando con la radio con Fabrizio, ma non sono stato, dico, ore per dire che non mi facevi ascoltare, non mi facevi parlare, solo quella è la mia discussione. Poi il rimprovero se me lo dai ed è giusto, assolutamente io l'accetto, non sono una persona ignorante e poco intelligente, è giusto, bisogna stare attenti molte volte quando si è vicini e sono il primo a dirlo, però sinceramente non me ne sono accorto e molte volte lo fanno a me e mica vado a dire oh mi sei ammazzendo, cosa del genere, come battuta lo dico, ma non me ne frega niente. A capo, lo prestaccio anche peraltro, non è che mi hai distrutto, no? Si dice per dire, cioè i colpi, i lividi, le altoforze, ma è tanto per dire, ma la vera colpa non è tua, tra virgolette, o della differenza di canali, o io che ero spostato, la vera colpa è della stazione che è tutta lineare, perché in realtà su quella con cui sto parlando mi faceva un leggerissimo battimento appena appena, cioè perdevo in ricezione un punto o due di segnale. Ciò vuol dire che quella stazione è tutta la via lineare, questo apparecchio con il quale sto parlando funziona bene, con la modifica che mi feci il secolo scorso evidentemente mi sta facendo bene. E che niente, cioè sono io che mi devo mettere in ordine in pratica. No, ma ci mancherebbe, guarda, non prendetela come un rimprovero da parte mia, come io non la prendo assolutamente un rimprovero. Ripeto, se io me ne fossi accorto sarei stato il primo a intervenire, assolutamente io di queste cose, già lo sapete, idem i reportanti, da parte mia non se ne vedranno mai. Quando mi dite qualcosa che non funziona sono il primo che si preoccupa per cercare di sistemare la situazione, come l'altra volta quando me l'avete detto, mi sembra proprio tu Gianni, guarda che ti ascolto su tre canali su, infatti ho detto cacchio, mi sono preoccupato tantissimo perché io cerco di uscire sempre entro i limiti di non dar disturbo a nessuno, perché è una cosa importante per tanti motivi, oltre al disturbo per altre persone che potrebbero crearti dei problemi. Avete fatto bene a dirmelo, però tu adesso hai aggiunto, però non riuscivo a capire quello che dicevi del dottore, sinceramente pensavo fosse rivolto a questo momento Fabio, che magari mi ascoltavi troppo forte, come molte volte mi dicevi che lo Smith si sbatteva al muro. Infatti io ho risposto pensando a questo discorso di dirti, quando ti metterai l'antenna anche tu mi dovrai chiedere, cioè dovrò chiederti i danni, ma mi pensavo che stavate parlando di cosa di sbattere o cosa del genere. Comunque chiudiamo con l'argomento, perché sennò stiamo mezz'ora parlando di cose inutili che a me non mi interessano. Ok, avanti di nuovo, chi c'era qua su questo canale? Gianni Doppio Rum, Marcolino, avanti a te. Fabio. K. Marco è un bel ecco oggi. Gatta se flash. Ecco Marco. Avevo un bel ecco, l'ho scritto con l'ecco, ho sbaglio. E boh, non ci ho fatto caso, ormai qua c'entrano tutti i muti, ecco, senza ecco, riverberi, elicotteri, cosa vi so, biplani, di tutto c'è di più. Vai Gianni. Ma scusate, sono a tenere. Ah ok. Capo, anche ero di pasta poco fa con Riccardino. Cosa sta mangiando? Non ce l'ha detto il menù oggi, cosa c'ha? Polpettone o rosmi? No, no, oggi niente, siccome la telefono col padre, la telefonata mi sta un po' allungando, gli ho detto a io ho capito che stai iniziando a mangiare, c'è un problema, che se continui a parlare con me, tua figlia ti mangia tutto. Ah, sì. Ma poi non ho capito con cosa l'hanno chiamato, ora c'hanno una tromba, una sirena di allarme, buh. No, penso di no, quello che senti lì sotto era il telefono, la sassoleria. Ah, era una suoneria di telefono, pensavo fosse, tipo, siccome hai visto dove abita lui, c'è un bel appezzamento di terreno, pensavo che avesse messo qualche tromba, tipo come si usavano nei ranch americani, aiuto tutti a mangiare nella mensa del coso, dei cowboy. Mi, sono di uovo di pasta, sì, infatti ti ho detto, Robè, io sto anche modulando il giardino da nel frattempo, ti ho detto, Robè, zitto tu che c'hai l'ambulanza, no? Ti ho detto per questo, capito? Aspetta che sono di pasta con Riccardino. Sì, non c'è problema, Gianni si è rimasto lo stesso, chi è rimasto qua? Attenzione, canale 10 che vuole entrare, perché io ho qualche minuto e vado a nanna. Fabrizio, c'è ancora? Robè, ehi, aspetta, aspetta che siamo di pasta, ma ci siamo lo stesso, Robè. Ehi. Scusate, che avevo la massa, quindi ci sono dovuto allontanare. Siete in tre di bassa, Tino. Ok, cos'è Riccardo? Aspetta, mi stai chiamando. Boh, no, non lo capisco io Riccardino, eh. No, avevo una bassa, mi sono dovuto spostare dalla cosa, perché volevo il telefono lontano. Sono di nuovo qua, Ehi, ok, no, stavo dicendo che contemporaneamente siete tu, Gianni e Fabio, tutti e tre di bassa, eravate per quello che si è ammutolita di colpo questo canale. Cos'hai detto, Riccardino? Vabbè. Anche lui mi sembra che gli ha squillato il telefono. E vabbè, adesso, sai, sono quelli, allora mi ha chiamato il dottore del lavoro per aggiornarmi delle cose per domani. E quindi mollo la regolazione per fare riferimento al contrabbacco per domani, ecco. Che ma presto entri tu, gli orari vuoi, alle 8 entrate te. Ma io sì, diciamo dovrei entrare alle 8, però alle 7 e mezza sono già a Porto Torres, diciamo zona Capannone, poi da lì si parte. Cosa stai facendo? Che zone state facendo? Ma adesso siamo a Sentino. Sto facendo una ristrutturazione della casa della madre, quindi ma abbiamo quasi terminato, vuol fare con qualche sportellone e poi basta, perché gli ho fatto le mazzette nuove, gli ho fatto i fichi, quindi. E poi stiamo facendo la zona della Lurda, sempre interventi per quanto riguarda il consorzio della Lurda, dai. Infatti io mi ricordavo che facevi qualcosa del genere, qualche condotta, cosa del genere, o linea elettrica. No, diciamo che il mio lavoro è scavatoista, però sai, quando sei in una ditta che fai un po' di tutto, allora accumuli, accumuli, accumuli, poi giustamente c'è quello che magari vuole fare solo il muratore, quello che vuole fare solo il camionista, quello che vuole fare solo l'escavatorista. Io invece ho preso un po' di tutto, quindi nella sacchetta ci ho messo un po' di tutto, quindi quando facciamo edilizia in genere anche, capito, quindi anche le strutturazioni e quant'altro. Non si finisce mai di imparare, perché io a me piace molto sempre imparare, fare, mettermi, adesso sto facendo anche un po' di falegnameria, quindi si può immaginare, voglio dire, a 50 anni non è che vuoi imparare, però insomma riusciamo a accontentare il cliente. No, sempre bene, c'è sempre da imparare, detto bene, poi l'arte di arrangiarsi è sempre remunerativa, nel senso che può essere utile sia per gli altri che per te stesso, è sempre, sempre un bene. Quindi siamo già due di escavatoristi qua, ce ne sono. Ce ne sono anche uno in più anche, non so chi è l'altro. Non c'è Massimiliano. Ah, sì, io ho iniziato nel lontano 89. Ma tu c'hai i mezzi tuoi o lavori sotto principio? Diciamo che era un'azienda tra virgolette familiare, dai, era mio zio padrino che aveva la ditta, poi sino all'età di andarsene in pensione, sono andato in pensione, ha chiuso l'attività, adesso sto lavorando con un ragazzo praticamente che è lo stesso figliuccio di mio padrino, nonché nipote stesso, e quindi stiamo collaborando assieme anche perché sa quello che ho fatto, quello che so fare e così via, dai, stiamo collaborando assieme. Ok, dai, è importante che ci sia il lavoro e la pagnotta da portare a casa, è quello importante, perché è brutto con questo cavolo di cosa che è successa, un po' di gente è rimasta a casa senza far niente e di là in lungo. Ma oddio, non lo so, perché effettivamente oggi come oggi, vabbè, è brutto perdere il lavoro per carità, però se è gratificato. In questo caso lo Stato ti sta imponendo, perché vedo e so per certo cosa ti sta dando, ti sta imponendo a, tra virgolette, a non lavorare, perché effettivamente ti dà delle cose che non so per quanti anni, però al giorno d'oggi è così. Ehi, ok, vediamo se Fabio rientra. Nulla. Gianni? Io ci sono! Ehi, dai, io però signori io vi lascio perché sono un po' stanco oggi, mi sono un po' affaticato, ho fatto qualche chilometro con la macchina, col camper, anzi dai, vi lascio proseguire, divertitevi, buon proseguimento, io vado in corretti, dai, sono un po' stanchino. Ci sentiamo alle prossime, ciao Tino, ciao Gianni, ciao Fabio, Riccardino, Marco e tutti gli eventuali amici qua in ascolto sul canale 10, io vado a nanna, ciao ciao. Ciao, buonanotte. Ehi, ciao Robe, ciao, ci si riascolta, alle prossime, buonanotte, buon inizio di settimana per il tuo trabacco e quant'altro, dai. Non so che ci è rimasto, quante Gianni? C'è Fabio ci si. Oh, ma è proprio secco questo segnale che, cioè è tirchio, volevo dire non secco, è tirchio questo Lincoln, Gianni non riesce a mandare fondo scala qua, arrivi Santiago 9. E anche quello, il 3009, quello che c'ho io. Devi dare sempre, nel mio devi dare due segnali in più di quello che ti segna. Sì, infatti, non lo so, vabbè, nell'altro invece li accendi tutti, nell'altro ancora invece, vabbè, ce ne vuole arrivare nell'altro, però va bene, va bene. Pappagallo, io vabbè, sì, io sono liscio, senza nulla. Sono col microfono amplificato, ma mi pare che la batteria si sta scaricando perché non entra più l'eco. Ce l'ho al massimo, ovviamente non è. No, vabbè, anche io non è che. Non so, sinceramente, perché ho, un giorno o l'altro mi deciderò a comprarlo questo benedetto rosso che ho trovato un metro in più, perché ne ho solo uno ed è collegato alla. Aspetta, sempre il portatilino accendersi, pensavo che era il Baufen in qualche nome nel PD. Volevo comprarlo, non so, mi dimentico sempre di guardare cosa posso fare per metterlo negli altri radio anche, perché già insomma non guasta avere un rosmetro o un fattometro in più. Vabbè. Chi è rimasto? Fabio, sì. Però ce l'hai ecco, eh. Adesso c'è. Sì, c'è. Senti, ma è a mare come? Prima come metti via uno, perché c'era già l'eco, capito? C'è, va bene, va bene. Così è regolato oppure è fastidioso? No, io lo gradisco più così, perché nell'altra maniera è un pochino più, c'è più l'eco e magari molte parole, ma parlo per me, e poi molte volte non le capisco, invece così è più regolare. E lo lasciamo così, intanto che vi diamo un po' più di spinta, di amplificazione. No, già va bene, già va bene. Beh, invece questo qua non ha cambiato niente, sta sempre continuando a stare bene? Sì, c'è la tavola detto. Sì, ma ha un difetto che quando mollo io il mic tarda, cioè se tu riprendi subito perdo il primo pezzo della parola che dice, capito? Quindi ci vuole quell'attimo di bianco per il momento che io stacco. Ho capito, si mangia la prima lettera, dai. Di solito lo fa quando c'è un remi di mezzo, tipo, già ti posso dire, un microfono, non un microfono amplificato, un eco, una cosa del genere, che scatta un remi e praticamente ti fa questa cosa tardiva per riprendere. Quando c'è il beep, per dire, il beep te lo fa. Ho capito. Va bene, dai. Gli hai mandato a proposito il mio numero a Marco? Sì, glielo ho mandato. Ok, così almeno. No, perché volevo dirle cosa ho messo a proposito. Riesci a cercarlo, se riesco a trovarlo. Ma cos'è quello, un programma? Sì, io l'ho trovato, però era Roma 1, se non mi sbaglio. E fa solo la 27 però, Aspetta un attimino, infatti c'è Italia, Roma, se non mi ricordo cosa ha fatto lui. Dove era? Firenze, se non mi sbaglio. Sì, Firenze, una cosa del Sì, ero riuscito anch'io comunque un tempo, se non mi ricordo quando, a sentirmi infatti fischiavo e mi sentivo dopo la distanza di qualche secondo. Capito. Non è rimasto nessuno, Fabio. Fabio. Gianni, stai parlando? Sì, ti sto chiamando, non mi senti? No, io sono di Bassa, ma adesso entriamo in due, guarda, entra anche Riccardino. Portiamo su 10. Siamo su 10. Dai, tra un po', ciao. Siamo su 10. Non ti preoccupare, siamo qui. Siamo qui. Ci lasciamo da solo, Gianni. Ma sono solo, c'è anche Muscolo. Se no ve la unzoli. Bene, c'è anche Muscolo. Roberto, per qua. Roberto, sei andato. No, vabbè, noi eravamo al telefono. Roberto, sei andato. Ha chiuso. Sì, ha detto che era stanco, che aveva fatto troppi chilometri col camper. Non mi ha detto niente, ma con la foto ne ha mandato. Domani gli mando un messaggio. Ha detto che ha fatto chilometri col camper e quindi era stanco e si andava a letto. E a volte guidare in pensione ti dà un po' di fatica, Guidare questo che c'ho a Sassari è più faticoso di quello che c'ho a Rosia. Quello che c'ho a Rosia è un Ducato. Quando guido lo butto a 70 all'ora, è bello stabile, se ne sta bello inchiodato per terra. Invece questo Ford che c'ho a Sassari adesso gli devo rifare le gomme un pochino, perché sinceramente anche fare tipo 100-150 km inizia a essere una cosa un po' pesante, e comunque l'inversione non è rilassante come la macchina quando lo guidi. Poi guarda che io ho fatto l'autista per 38 anni, quindi immagino. E scappa. Io sono sempre a tuo agio con un po' di chilometri sulle spalle. Io ho fatto qualche milione di chilometri, già lo sai, in macchina, vabbè anche in furgoni, ma soprattutto in Audi. Ma io penso che i mezzi che stanno facendo adesso, perlomeno l'ultimo che ci avevamo noi, il Devi, ci aveva una sterzata, era leggerissimo, sembrava una vettura. E cappa, io ho un furgone ad Olbia, che è sempre un Ducato, però della serie successiva a quello del camper, che è veramente, veramente comodo, ma veramente. Poi agli se siete a filo della fiancata, non è come il camper che in una maniera o nell'altra tu ti fai, perché tu hai visto che ti fai l'occhio della carreggiata in base a quello che i tuoi occhi vedono praticamente davanti, no? Ti fai l'idea del muso, dove puoi passare, come ti puoi centrare. Nel camper invece che spunta la sella di lato, devi stare un attimino più attento per stare al centro della strada. Se sei situato in macchina o in furgone che vedi certe cose in automatico ti metti al centro, col camper magari è un po' diverso. E poi le manovre con questo furgone che ci ha doppiato sono un gioco, ha un assetto preciso eccetera. Col camper, meno male che c'è la telecamera dietro, va. Scusate, dai, che mi devo spostare dalla radio. Ne approfitto a salutarvi, dai, che così almeno preparo la roba per domani. E domani è una puntatina un po' pesante, anche perché mi devo alzare presto. Quindi ne approfitto. Vi saluto, continuate a fare un buon corso e niente, ci sentiamo alle prossime. Ciao, riprendi Gianni. Ciao Tito, ciao, ci sentiamo. Buona preparazione, buon lavoro per domani, dai. Ci sentiamo, là. Ciao ciao. Cappatino, buon corretti con tutto. Ci sentiamo alle prossime. Comunque, regolata alta, regolata bassa, a metà, più potente, meno potente, sempre alla bestia, sempre a posto. Avanti di casino, fini saluti. No, anch'io ho fatto una reazione a catena. Ciao Tino, ciao Gianni e ciao Fabio a tutti gli eventuali ascoltoni, e anche Roberto c'è ancora in ascolto, che purtroppo non sono riuscita a salutarlo. Ci sentiamo, devo andare a prendere la carriola che mi piace molto, e ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao Riccardo, buonanotte, avanti fa. Tappa di casino, buona carriola, buon tutto, ci sentiamo domani. E niente, adesso l'anno vostro che sta qui di solito sono pochissimi per ascoltare mille cose. E va anche bene, tanto domani è in scuola. Hai capito già, lui prende il ricevitore, se ne va in camera, mette l'antennino e inizia a spazzolare. Per il ricevitore, poi se l'antennino è posto. Sì, me l'ha fatto vedere. È un po' antico, però già dovrebbe funzionare bene. Cazzo, ma non quello a valvole, quello sembra un motorario dual beam, capito? Ma no, quello non l'ho visto, sa. Non l'ho visto allora, non me l'ha mandato. Vabbè, il cardino, adesso lo sta prendendo male questa cosa. Sì, già, poi si mette lui a ascoltare trasmissioni, broadcast, qualche vicente, qualcuno che parla a qualche frequenza, capito? Si mette lì e si permette a quelli che si mette che è bellino. Sì, sta organizzando bene, dai. Sì, c'è una bella stazione. Vabbè, anche perché il padre è appassionato, perciò il padre dice sì, questo apparecchio magari non l'avrebbe preso, però col fatto che c'è la passione anche del figlio, e da così faccio un po' un regalo a me, un po' un regalo a bambino, capito? Fa così, ta-ta-ta, e via un altro pezzo, e dopo un po' via un altro pezzo, c'hanno un bel di roba, ma tanta. Perché hanno preso anche stock, capito? Hanno preso stock di roba. In mezzo agli stock, per dire, l'apparecchio che vi ho fatto comprare io è molto bello, c'ha un microfono tutto cromato, tutto bellissimo. L'originale non ce l'aveva, però metto questo qui esce molto bene. Quindi io gli ho detto di sì e tu l'ho detto a Riccardo, l'ho fatto prendere a lui, capito? Perché era 16 canali, se no me l'avrei preso io. No, io non ho cose della collezione, non li voglio, cioè ne ho già cose della collezione, sono portati nel cuore avanti, benino, nel 1980, un VAT della Inuit, bellino, carino, ed è un pezzo della collezione, ma non lo sto usando, mi viene voglia di darlo a qualcuno che magari riesce a usarlo, capito? Perché io quello che ho devo usare, se no non mi dico nulla. Lo so, prima con un VAT andavi da tutte le parti, anche al vero arrivato con un VAT, ma adesso con l'inquinamento atmosferico che c'è, non va a vedere ma quella quali. Che io che non so l'antenna, se tengo l'RFK un po' alto nella stazione, anche stasera avevo tipo Santiago 8, Santiago 9 in QRM, capito? Troppo alto, e dove vai? Quando è così non arrivi da nessuna parte. Quando invece era pulito, ti mettevi un VAT, ma anche in FM, sull'8808, mettevi un VAT, facevi una terna giusta giusta e coprivi tutta Sassari. Sì, io praticamente sono arrivato a Valghero con un portatile, forse che lui l'ha 3 VAT in Siccanato, me la toccai. Sono arrivato a Valghero. Sì, va, figurati. Figurati, io con l'ana 38 e con un supporto per un attenino sotto il manigliotto della moto, della figlia, che dietro c'è il manigliotto, no? Sopra il faro. Io avevo messo un forato e avevo messo il supporto per l'antenna. Portatilino, toglievo l'antenna sotto la stella, poteva piegare un pochino, c'entrava con la molla. Mettevo lì dove ero. Mi sentivano, capito? Anche senza avere chissà quanti watt. La maggior parte della volta uscivo con un watt, sennò la batteria se ne scendeva subito. Io l'ho piantato, non so se è morto, sul Suzuki 400, due scooteroni, sul Goodyear. Non avevo il bauletto dietro, ho attaccato l'antenna magnetica sul bauletto e l'apparato alla batteria. Mi sono messo al quadrato, modulato, dice dove sei già? E guarda che sono al quadrato. Adesso non vedo la macchina tua, dove sei? Oh, la di grazia a lui, dice che moto sei. Sì, già, era come avere il telefono al tempo. Non avevo bisogno di avere lo smartphone in tasca. Bastava che fermavo qualcuno. Canale 14, c'era sempre qualcuno in ascolto. O Angelo Destino, o Antonello Pompugno. Canale 14 era un po' di riferimento di Sassari, no? Al tempo. E poi una volta su 14 ne andavi su 30, su 20, e si faceva la rotta lì, per dire. Però magari vedevo un'antenna che stava passando. Mi avvicinavo, ciao, sono Fabio Amante, posso fare una chiamata su 14? E via, capito? Non c'era problema. Già riuscivi comunque a raggiungere qualcuno che magari era con un telefono, che chiamava un altro, si riusciva così, andava benissimo. E anche io al quadrato ne ho conosciuto tanti così, mi avvicinavo, sono riuscito, sono doppio luce, sono doppio luce, vabbè, quello va invece una cosa e via. Tanti ne ho conosciuto prima al quadrato, si mettevano tutti lì proprio al centro del quadrato, le macchine CD per modulare. Io mi ricordo, siccome Angelo Destino, prima della tragedia che ha avuto tesoro, teneva un sacco il solletico, ma lo teneva anche se gli facevi il gesto il solletico, capito? Cioè tu da lontano facevi il gesto di fare il solletico di lato, tipo nei fianchi, con gli indici, capito? Così, tata Angelo, tata! Cavolo, poco si cazzava, un giorno mi ha seguito per tutto il quadrato, non mi mollava, io correndo come un disperato, stavano le macchine girando intorno, non mi mollava, io due calci devi devorare. Stava giocando al pallone, ha smesso di giocare al pallone per seguire a me, guarda, ti dico, che risata quadrato. E tutti CB, ci ritrovavamo in 5, 10, qualche volta c'era qualche raduno, riuscivamo a essere anche in 20, le vedevi queste macchine, erano tre antennone, tutti aggressivi, con le tendine di Berlimo, ruia. Ia, me lo ricordo, anche io venivo anch'io, con gli appuntamenti che ci davamo a giocare a pallone, lì, e l'hanno portato anche il formaggio fratico, due dire. Il vino, il formaggio fratico, se volevo che a mangiare al quadrato, se fa coffa della macchina, il formaggio con il vino. Ehi, lo sono sentito un paio di giorni fa. E comunque capitava di aprire il cofano e mangiare qualcosa di bere, e chiacchiere, investigare, e le cose che non dici per radio, che dici in persona, e qua e lì e là, ma quello lì perché non c'è più, ma hai visto quell'altro che ha messo in lineare, quello che ha messo a penna, quello che ha messo a macchina, e vedi cosa discorsi, io vado avanti. Dai, era divertente. Comunque devo dirti che non mi sta dispiacendo la 27 così com'è in questo periodo, eh? Sì, le solite cazzate, qualcuno stupido forse, però non mi stai spiacendo, ci sono ruote, ci sono discorsi tranquilli, una cosa carina. Per tanti anni mi è mancata questa cosa, tanti anni, c'era molto affezionato. Sì, se c'è gente tranquilla e non ci sono portati, fai discorsi sensati, puoi anche scartare, non è per forza di fare discorsi seri, però è interessante che si faccia sempre rispettando tutti e basta, che si faccia sempre senza far casino. Io anche l'altro giorno sono stato bene quando abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di dischi, abbiamo parlato di stereo, cioè sono discorsi che a me piacciono, perché anche io ci sono stato in mezzo a queste cose da ragazzo, ero ben appassionato. Sì, K, poi ieri notte il discorso era così interessante, io lo stavo ascoltando e mi ha detto pa, no dai ci trovo, sapevo di non avere benzina, no? Perché il portatino c'ha il suo gommino che è alto un palmo e speravo di riuscire a uscire pulito con 4 watt, e quando ho 4 watt sono di più, invece non metto un watt, col cappetto che ho in dotazione diciamo, riesce a uscire meglio, so che non arrivavo neanche all'improfessa con 4 watt, tu mi sentivi bene però, o sbaglio? Sì, ti sentivo un po' basso ma ti sentivo. Bene, sempre utile, vedi, patatino, semplice, vecchiotto, omologato, assolutamente omologato, 40 canali, sempre comodo, l'ho tenuto talmente bene che sembra praticamente da benzina, mai aperto, mai toccato, il difetto che aveva è che c'è un po' di batterie, ma batterie non ce ne metto più, quasi le metto due volte, ce le ho due volte a un watt, poco tempo via, tutte le due c'è da cambiare, non è lì, un po' così c'è. Poi come ha fatto Poggio, come ha fatto Lupo Vince, si è comprato una batteria tra colla, si mette e vendola per la strada con portata. Poi, no, per carità, mamma mia, cioè a meno che non ce ne sono bisogno, è verità. Poi le batterie ci metto, adesso ti dico se ne fa collizio, col caricatore dedicato, eccetera, se vuoi fare qualcosa di decente. Ma se c'è una necessità ho capito, perché stiamo organizzando qualcosa, che so, un'escursione, una gita con vari mezzi, diventiamo spazi nella campagna. Ma a uscire con la tracolla, batteria di via. Tu non hai conosciuto i tempi di quando c'era Radio Club Nord Sardegna, via Luzzatti? Come si chiama Radio Club Nord Sardegna? K. No, non mi viene nemmeno a ricordo. Ma che anni era? Beh, anni 70, da 75-80. E lì si organizzavano le gite, caccia al tesoro, c'erano donne, maschi, ragazzi, ragazze, si faceva la mangetta di fainì, si giocava a carte, c'era proprio un ritrovo. Poi c'era il presidente che diceva, doppio Luca, come entrambi, c'è una QSL per te, perché io la mandavo al più box sempre dell'associazione, no? C'è una QSL per te, per te me la dà. Figo, bello. Tra il DX, ricevere il QSL, condividere queste cose con un gruppo. E poi, cos'è successo? Sono inquinate le acque, qualche litigio, o è cambiato, non lo so, qualche regolamento? Come mai non c'è più questo club? Poi la gente era molto anziana, quelli che c'erano giù di Columbano, c'era Macallè, c'erano tutti quanti quegli anziani, e poi purtroppo sono deceduti, magari nessuno ha voluto sostituirli, e niente, è caduto tutto. Peccato, persone con una grande passione in comune, che perdono un punto di riferimento, è peccato, è una cosa carina. Io sono in qualche gruppo su Facebook, cioè abbiamo attori, sono CD, discutono finanze, anche poco fa ho mandato un messaggio per vedere se qualcuno mi possa affrontare da Kenwood, per Z qua. perché mi mancano i tassini, mi manca il vetrino, è un peccato, cioè funziona benissimo, è perfetto, però si è salvato l'alluvione cadendo praticamente su da uno scaffale a un altro. E lì poi quando abbiamo liberato tutto il magazzino, che era un casino, non si capisce la sua scatola che fine ha già fatto, perché forse magari era bagnata, qualcuno ha aperto e l'ha messo in un'altra, dentro un'altra busta, ha capito, una cosa del genere. Però lui ha preso un colpo sul frontale, si è staccato il vetrino con i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tassini che c'è al lato, e non ho più trovato né il vetrino né i tassini, perché magari l'avrei pure incollato e l'avrei sistemato, perché invece niente. E siccome una parecchietta qua tengo, neanche tanto, stavo cercando il frontale, però sembra che nessuno ce l'abbia. Ma o se lo tengono stretto, oppure parecchio che non si è rotto, faccio il pezzi così non si trova in giro. Ma va a chiedere anche qua, magari qualcuno ce l'ha e riesce a trovarlo. Sì, anche io ho amico CP, poi ho anni 70, 80, nella CB, eccetera, eccetera. Tutti questi amico CV, sono diversi, là. Sì, scappa. Non lo so. Sì, toccherà chiedere a qualcuno. Magari pensavo a qualcuno, tra l'altro, che non entra. Perché lo so che sono degli amatori o dei CB che non entrano, che però ci ascoltano. Perciò magari chiedo un po' a Marco Condor, che ha capito che ne conosce di qualcuno. Vedo un attimino se se ne esce in qualche modo, capito? Vediamo un po'. Perché sinceramente mi piacerebbe vederlo come prima, vederlo intero. Se no, comunque il suo lavoro continua a farlo come l'ha sempre fatto, e perciò fa due resistenza, me lo tengo così. E che siccome ci mancano i tassini, tengo praticamente la resistenza di quella della 5 watt, che ha i reofori un po' rigidi, no? Un po' grossi. Io tengo questa qui a fianco e per toccare i tassini ci devo infilare questo. Così è un po' scomodo, ma... E vabbè, Santa Raggio. Ma se fosse stato un 440, 140, avrei saputo chi fate di voce, ma quello lì non so se non l'ho mai sentito, dai. Frugando il forum ho visto qualcuno che dice io sul mio RZ ricevo così e invece cosa? Immediatamente subito, ma lo stai vendendo? No, me lo tengo stretto. Cioè evidentemente chi c'ha non lo volevo dare. Io l'ho sempre preso molto come ricevitore, però io so pure che c'è di meglio. Vabbè, magari di altre marche, tipo gli Aesio, quello così. Roberto per esempio ne ha molto interessanti di ricevitori anche per altre cose. Però mi sa che chi ce la sorte, insomma, non me lo mollano. Dispiace perché qui uno mette le cose ordinate, pulite, fatte, tenute bene, che in un momento si distrugga tutto, dispiace. E infatti, ma già lo so che parlando con te di questa cosa, sto fumando una porta aperta, poco vizio. Io tutto quanto puro, non mi piacciono le cose graffiate, vecchie, no. No, infatti, cioè, questo con quale sto parlando che è proprio ordinato. Poi c'è la stazione che c'è sotto, che anche lì, anche se è ordinato a vedersi, vabbè, c'è la stagione che l'avevo detto dentro, però c'è il mio programma. E poi c'è quest'altro qua, che dovrebbe essere il gioiello, perché in realtà è l'apparecchio più serio che c'è qui, in assoluto. Senta, questa cosa, non tanto mi piglia male quando lo vedo. Secondo me tu l'avresti già venduto, roba del genere. Non so, le cose che non mi piacciono, le faccio uscire fuori. Ma non è roba vecchia, è tutto quello che do è nuovo. Perché io tengo sono maniaco delle cose, mi piace tenerla bene, anche la macchina, tutto. Io ho la macchina che ultimamente mi sto curando un poco di lei, ma adesso cambiamo un po' di richiamo, se no penso che devo fare assolutamente, e poi la porto per il cielo, perché ho preso un po' di caldo e sta un po' staccando la sopra, e poi ci sarà da fargli un po' di carrozzeria qua, che se lo merita, la torta capitale con la macchina. Se non la chiudi bene sembra un carrozzone, poi ci trova la macchina, qui sembra un carrozzone con non è perfetta. Ma è la rifaccio? Sì, adesso l'ha visto un mio amico, si deve rifare, si sta cambiando, si cambia forse anche un pochino, però si cambia lo strumento nuovo, ciao, anche perché caricando materiale, perché c'è un furgone fermo, ho infilato un po' di legno con moltissima attenzione, con le pistacchie eccetera, per non, però qualche finissimo anche se si corre l'ho fatto. E io sono come te già, cioè non esiste tutto. Ma io l'avevo fatto quello della Opel, l'avevo fatto la Merella, ne avevo preso 250 euro, non lo ricordo ancora, ma me l'ha fatto perfetto, sembrava quello della fabbrica, uguale di colori, tutto. Sì, capo, questa mi fa un concessionario, mi capita anche di lavoro, no? Perché lui ogni mattina ti ritira, prima di ritirarla, la porta al meccanico, la fa da controllare, eccetera, così rifinisce bene la valutazione, per la sentire, va proprio bene, perfetta, d'accordo, ti do questo, se invece tu magari arrivi lì, sta lasciando un usato, per prendere un'altra, per dire, la porta al meccanico, e il meccanico dice, no, poi cosa da vedere, o che faccio ho fatto, allora ti mette la macchina in vigilia, o ti dà quello che dice lui, oppure la macchina non te la vigilia. Ed è molto pratico, mi ha detto, guarda, praticamente io devo mangiare a due meccanici, a due carrozzieri e a due tappetieri. Perciò lasciala a me che la facciamo fare, tutto preventivo di quanto costava. Insomma, ci vuole nuovo, proprio nuovo, la smontano tutta e glielo mettono nuovo, capito? Evidentemente per quel tipo di tessuto non si può fare più di tanto. Sì, si fa così da un po' di anni, io ce l'avevo 12 anni e ha cominciato a scendere il cielo. E piano piano era tutto rigonfiato, era brutto a vedersi. E gliel'ho fatto fare 250 euro da me nella sassa. E la cifra più o meno è quella, che non è male, anche perché sai che ogni volta che vedono quattro anelli non si capisce per quale motivo, soprattutto i carrozzini tendono a raddoppiare, e questo c'ha quattro anelli, già spende, a parità giù. E infatti, non c'è la macchina grossa, quindi vai di là. Sì, ma allora vuol dire niente. Io sinceramente, da quando ho preso quattro anelli, non ho fatto altro per risparmiare. C'è il carburante, di gestione, di manutenzione, perché una cosa è che, vabbè, l'olio quello va cambiato bene. Io ho sempre avuto la fissa di non arrivare a 10.000 km, pure con la 1, cioè qualsiasi macchina, io 10.000 km con l'olio, io gli ho mangiato il bar. Perciò sono molto di fretta, perché non ho in mano questo scritto all'abitacolo, se per i cristalli non ne frega niente. Ascolta, cambia subito l'olio e il filtro, tac, olio fresco, olio nuovo. Ma per il resto, quei quattro anelli, tutto un altro mondo, perché tutti tranquillo, ho visto macchine avere profila nuove, allucinanti, capito? Cose che non esistono, tipo la macchina di Tonino, io ho avuto nuova, ma non esiste tutte quelle cose. Ho preso colpi dall'Alfa Romeo, ho preso colpi dalla Ford, ho preso tanti colpi dalla Fiat, ho avuto poi un po' di altre macchine in utilizzo, ho preso pure colpi alla Rover, insomma, alla fine ho deciso, ho visto che ogni volta che ci sono quattro anelli non ce n'è. Il motore di fatti per durare un milione di chilometri, ci ho detto tutto. Io sono macchine furti, ma io dico la verità, nelle mie ho messo sempre il Sint 2000 le macchine, e non me ne sono mai trovato male. quella che ho veduto era 350.000 km e non consumava olio, non le avevo mai fatto il motore, mai frizione, mai nulla. Solo la manutenzione che io li facevo ogni 15.000 km, cambio di candele, cambio olio, cambio il filtro dell'aria, cambio il filtro dell'olio, sempre quello di ogni 15.000 km, massimo 20.000. Sì, cappa. Certo, abbiamo già cambiato la frizione con 350.000 km, vuol dire che di esperienza la guida ne hai, e tu guidando roba grossa, sicuramente il mio sulla frizione lo sai mettere. Io ho fatto 460.000 km con un Audi e poi l'incidente l'avevano toccata. Io ho visto com'era, si poteva anche riparare, anche se avevo tipo 8.000 euro l'anno o qualcosa del genere, però ho visto che la macchina era storta in un certo modo, perché se no avevo preso un motivo, l'ho capito. L'altra macchina si è distrutta, è tutta da buttare, se la io ho piegato così al volo, anche se era da 4 mesi, la macchina da buttare. La mia sembrava più intera, però io ho visto alcuni particolari, non l'ho voluta riparare. 460.000 km con la frizione originale. Ah, ce l'ho il piedino già. Vabbè, c'è una linea che io facevo strada lunga, perché io lavoravo a Porto Torres, quindi facevo 4 volte Sassari Porto Torres. Non guidavo molto, sì, in città guidavo quando uscivo con la famiglia, andavamo a fare la spesa, eccetera, eccetera, però non più di tanto. Andavo molto fuori, capito? E i freni lo stesso, la stessa cosa, abbiamo beccato, ho detto, ma come hai fatto a non consumare le pastiglie tutti questi chilometri che hai fatto? Tu c'hai il piede d'oro, c'hai. Sì, già, ricordo che sull'S4 che avevo qualche anno fa, a un certo punto sono arrivato alla fine, i freni dietro, e la meccanica ha fatto, dai, 10 minuti di cambiare le pastiglie, non te ne andare, rimani che te la faccio al volo, è rimasta la macchina in mezzo all'officina tutta la mattina, perché le pastiglie di dietro praticamente non le avevo mai cambiate, c'erano fidati i bidoncini, che nelle Audi non vanno avanti e indietro, soltanto ma ruotano, praticamente è un sistema che fa in modo che tu sul pedale del freno, che abbia le pastiglie nuove, per le pastiglie usurate, abbia sempre la stessa sensazione, capisci? La stessa corsa, la stessa profondità, la stessa debolezza. E allora niente, si era praticamente un po' oscillato quello, tutta la mattina per cambiare le pastiglie freni dietro, non si volevano mollare. Io una volta ho dovuto cambiare i dischi, perché non mi sono accorto che erano usurati, quando li ho sentiti fischiare, li ho portati e me l'ho già mangiato. Hai dovuto cambiare i dischi perché già, scusa? Me ne ha rigati, si è consumata la... si sono consumate le pastiglie e toccavo il ferro con un ferro. Come ho frenato, si è detto una cosa del genere, l'ho portata al meccanico, un paio di giorni dopo, e mi ha detto, sono da sostituire i dischi. Cavolo, non te la segnalata la macchina? Sì, quando te lo segnala quello è sempre troppo tardi. Lo segnala sempre quando tocca ferro con ferro, come se no ti lo segnala. Cazzo, ce l'ha portato qualcuno sotto, avanti? Male, si sente un rumore sotto fondo. Tu lo senti il rumore, Fabio? Cappa, c'è un innesco brutto, Gianni, tutto brutto, c'è il modulatore che sta sfarfallando, ma con quale antenna stai uscendo? Peggio, ancora più forte, il rumore è ancora più forte già, certo rumore. Aspetta, Gianni, guarda che faccio il tutto così, capi tu, faccio il tutto, Sembra quasi che sia tensione. Oh Gianni, ma che apparecchio è? Va a volare? No Gianni, no, non premere il più importante, attacchi un altro apparecchio e controllati bene quello, perché se per fare danno grosso, È roba di corrente, si sente la scarica di corrente. Sì Gianni, non entrare, capri due, non entrare, non premere il importante, perché stai facendo danno grosso. Se secondo me hai una tensione non stabilizzata che sta arrivando sulla nodica, capito? Secondo come non è stabilizzata, secondo come sale con i picchi di alternanza, rischi di bucarti una griglia, tu già le capisci queste cose. Dunque non premere più importante, perché ti può bucare una griglia da un momento all'altro. segno all'apparato se vuoi entrare. Sta provando, minuto, aspetta. Più la portante, per favore. Aspetta Fabio che sta riprovando, non ha la complice. Sì, a cambiare valvole, poi quando si casinano quegli apparecchi se a bucare il condensatore non esci più. Prova già, adesso va bene. Ma non so da cercare, so qualche spezzone, qualche cosa. Qualcosa c'è, però sembra che sia la tensione, proprio la tensione elettrica che stia passando. Si sente come quando prendi la scossa. Io sono qua, anche Fabio è qua, però mi devo spostare 5 minuti e devo andare qui a capicolino. Ah, il K, oh già, io invece devo fare il correttivo, devo spostare il QTH. Via, va bene, dai, ci sentiamo, Fabio, buonanotte, e tante cose belle. Eia, buonanotte anche a te, già, e tante cose belle anche a te. E anche al Bau, salutami anche lui, che è troppo simpatico, un giorno magari me lo fai pure conoscere. E ci sentiamo domani. Capri 2, mi dispiace per le cose che devi fare, però io devo spostare il QTH e purtroppo non posso stare in frequenza. Ma te l'ho mandata la fotografia quando stavo parlando? No, adesso no. Pronto? 9 e 5. No, perché cos'era? Non erano affittati bene. Capri 2, non mi è sentito, ma io stavo facendo QRT. Bene, bene, bene, questa cosa degli ispettori l'avevo anche ipotizzata quando stavo parlando con tuo figlio l'altro giorno. E non solo io, l'avevo anche Roberto, se non sbaglio, stavo ipotizzando questa cosa degli ispettori. Sono contento che avete trovato la quadra, perché tra DSL e telefono che siete trovati, forse e forse si possono sentire solo col baracchino. D'accordo, io entro in esecutivo con il questo preciso istante e vi faccio i saluti per una buona notte quando la farete e per un prodigo di frequenza e per un buon QSO se avete bisogno di proseguire. Esecutivo a parte mia, saluti a tutti, Gianni e Gianni. Ciao, ciao, no, sto sottolineando anch'io, dai, ciao Gianni Capriglio, buonanotte, anche a te, questo studente, ciao. Adesso sei uscito basso basso, oh, io sei convinente, sei basso Gianni. Yeah.